Bibbia Martini, primo libro dei Re 14. Il profeta Ia interrogato dalla moglie di Geroboam intorno al figliuolo Abia, che era ammalato, le predice che il figliuolo morrà, e la casa di Geroboam sarà totalmente sterminata. Morte di Geroboam, a cui succede il figliuolo Nadab. Il re d'Egitto saccheggia la casa del Signore in Gerusalemme. Morte di Roboamo. A lui succede Abia suo figliuolo. In quel tempo Abia figliuolo di Geroboam si ammalò. E Geroboam disse a sua moglie, «Va, cambia di vestito, affinché non sii riconosciuta per moglie di Geroboam, e va a Silo, dove è Ia profeta, il quale mi predisse che io sarei stato re di questo popolo. Prendi ancora teco 10 pani, una torta, e un vaso di miele, e va a trovarlo, però che egli ti dirà quello che abbia da essere di questo fanciullo». Fece la moglie di Geroboam quello che egli le aveva detto, e si partì, e andò a Silo, e giunse a casa Ia. Ora egli non poteva vedere, però che se gli era offuscata la vista per la vecchiezza. Ma il Signore disse ad Ia, «Ecco la moglie di Geroboam, la quale viene a consultarti riguardo al suo figliuolo, che è ammalato. Tu le dirai questo, e questo». Mentre adunque ella entrava nascondendo il suo essere, sentì Ia il rumor dei piedi di lei, che entrava nella porta, e disse: «Entra pure, moglie di Geroboam, per qual motivo ti fingi tutt'altra? Or io son mandato a darti cattive nuove. Va, e di a Geroboam, queste cose dice il Signore Dio d'Israele, io ti ho esaltato dalla turba del popolo, e ti ho fatto capo del popolo mio d'Israele, e ho spezzato il regno della casa di Davide, e l'ho dato a te, ma tu non sei stato qual fu il mio servo Davide, il quale osservò i miei comandamenti, e seguì me con tutto il cuor suo, facendo quello che piaceva a me, ma tu hai fatto del male più di tutti quelli che furono prima di te, e ti sei fatti degli dei stranieri, e di getto, per provocare il mio sdegno, e hai gettato me dietro alle tue spalle. Per questo ecco, che io pioverò sciagure sopra la casa di Geroboam, e ucciderò della casa di Geroboam fino i cani, e i rinchiusi, e gli ultimi di Israele, e spazzerò gli avanzi della casa di Geroboam, come suole spazzarsi lo sterco fino all'intera ripulitura. Quelli della casa di Geroboam, che morranno in città, saranno mangiati da cani, e quelli, che resteranno morti in campagna, li divoreranno gli uccelli dell'aria, però che il Signore ha parlato. Tu pertanto parti, e vattene a casa tua, e in quel punto che tu porrai il piede in città, morrà il fanciullo, e tutto Israele lo piangerà, e gli darà sepoltura, impero che questi è il solo della stirpe di Geroboam, che sarà messo nel sepolcro, perché in lui il Signore Dio d'Israele ha trovato del bene in casa di Geroboam. Ora il Signore si è eletto un re per Israele, il quale sterminerà la casa di Geroboam in questo dì, e in questo tempo, e il Signore Dio sconvolgerà Israele, come una canna è agitata dalle acque, ed estirperà Israele da questa buona terra data da lui e ai padri loro, e gli sperperà oltre il fiume, perché hanno dedicati dei boschetti, per irritare il Signore. E il Signore lascerà in abbandono Israele per i peccati di Geroboam, il quale peccò, e fece peccare Israele. Si partì adunque la moglie di Geroboam, e se ne andò a Tersa, e mentre ella metteva il piede sulla soglia di casa, il fanciullo morì, e lo seppellirono, e tutto Israele le pianse secondo la parola detta dal Signore per bocca di Ahia profeta suo servo. Il resto poi delle azioni di Geroboam, e le sue guerre, e in qual modo egli regnasse, tutte queste cose sono scritte nel giornale dei re di Israele. E la durata del regno di Geroboam fu di 22 anni, e si addormentò coi padri suoi, e gli succedette nel regno Nadab suo figliuolo. Roboamo poi figliuolo di Salomone regnò in Giuda. 41 anni aveva Roboamo, quando cominciò a regnare, e regnò 17 anni in Gerusalemme città eletta dal Signore tra tutte le tribù di Israele, per ristabilirvi il suo nome. La madre sua chiamavasi Naama, ed era ammonita. E Giuda fece il male al cospetto del Signore, ed essi lo irritarono più di quello che avesser fatto con tutte le loro male opere i padri loro. Però che egli no pure si eressero altari, e statue, e boschetti sopra tutte le alte colline, e sotto ogni albero ombroso. E oltre a questo eranvi nel paese dei giovani effeminati, i quali rinnovellarono tutte le abominazioni delle genti, le quali il Signore distrusse all'arrivo dei figliuoli di Israele. Or l'anno quinto del regno di Roboamo, Sesac re d'Egitto venne a Gerusalemme. E portò via i tesori della casa del Signore, e i tesori del re, e depredò ogni cosa, e fino gli scudi d'oro fatti da Salomone, invece dei quali il re Roboamo fece degli scudi di bronzo, e li pose nelle mani dei capitani delle guardie, e di quelli che facevano sentinella dinanzi alla porta della casa del re. E quando il re entrava nella casa del Signore, li portavano quelli che dovevano precederlo, e poi li riportavano all'arsenale delle guardie. Il resto poi delle azioni di Roboamo, e tutto quello che i fece, sta scritto nel giornale delle cose dei re di Giuda. E fu guerra continua tra Roboamo e Geroboam. E Roboamo si addormentò coi padri suoi, e fu con essi sepolto nella città di Davide. Il nome poi di sua madre fu Naama, ed ella era ammonita. E il suo figliuolo Abiam fu suo successore nel regno. Note 14,1. In quel tempo abbiaici queste frasi in quel tempo, in quei giorni sono spesso usate nella scrittura senza che perciò passa a inferirsene, che gli avvenimenti che seguono leghino assolutamente co precedenti, come notò già S. Agostino, De Cons Evangelist. Lib 2, 6. Quindi da vari interpreti la storia della malattia e della morte di Abia è riferita agli ultimi tempi del regno del padre Geroboam. 14,2. Va a Silo. Silo, benché fosse già nella porzione di Efraim, doveva essere allora in dominio del re di Giuda. Geroboamo nel pericolo in cui si trovava il figliuolo, non manda a consultare i suoi sacerdoti, né i suoi dei d'oro, ma il profeta del vero Dio. Il timore di Essem riconvenuto da questa profeta per la sua impietà, lo ritenne probabilmente dall'andare in persona, manda perciò la moglie in abito di donna plebea e con presenti appropriati alla mentita sua condizione. 14,10. I rinchiusi e gli ultimi di Israele. Non sarà risparmiata nella tenera età, e i fanciulli, che sono custoditi nelle case, né il volgo in belle, a cui suole perdonare anche il nemico. Vedi Deut. XII, 36. 14,13. Perché in lui il Signore ha trovato del bene. Questo giovane principe non doveva essere simile al padre. Gli ebrei dicono che gli atterrava le mura e gli steccati fatti dal padre per impedire che i suoi sudditi non andassero ad adorare il Signore a Gerusalemme. Ma l'autorità di tali storici è troppo screditata. La scrittura non spiega quello ci accia e i facesse da meritare il gradimento di Dio. 14,15. Gli spargerà oltre il fiume, di là dal Frate. Dio effettuò le sue minacce per mezzo di Deglatfalasar e di Salmanasar. 14,17. Se enne andò a Tersa. Tersa città amenissima, dove Geroboam doveva fare allora la sua residenza. Nei LXX ella è detta Sarira. E mentre alla metteva il piede sulla soglia di casa, e ci avendo detto il profeta V12. Che Abia sarebbe morto nel tempo appunto, che la moglie di Geroboam avrebbe posto il piede in città, e dicendosi adesso che gli morì, mentre quella poneva il piede sulla soglia di casa, si può quindi inferire che la casa del re fosse contigua alla porta della città, dove solea raunarsi il popolo, e si amministrava la giustizia. 14,22. E Giuda fece il male ci. Per 3 anni Roboamo e il suo popolo conservaron la fede e il culto del vero Dio. 2 Paral. 11, 17. Credesi che la madre di Roboamo, che era ammonito e corrompesse il principe, i cattivi esempi del quale influirono nel popolo. 14,24. Erambi nel paese dei giovani effeminati. Si consacravano alle oscene deità dei gentili non solo le donne, ma anche gli uomini, e questa abominevole infamità fu imitata anche dagli ebrei più volte, come vedremo. Ed ella è una terribile, ma giusta pena per quelli, i quali, come dice l'Apostolo, cangiano la gloria dell'incorruttibile Dio per la figura di un simulacro. Per la qualcosa gli abbandona il Dio ai desideri del loro cuore, alla immondezza. Ha un reprobo senso, onde facciano cose non convenevoli. Vedi Roman. I 23. 24, 26. 27, 28. E quello che ivi si è detto. 14,25. Sesac re d'Egitto venne. E ci vedi due. Parot. 12. Può essere che Sesac si muovesse, ad istigazione di Geroboam suo amico e parente. Da quello che dice sì nel versetto 28. Si vede che Roboamo, dopo aver provati gli effetti dell'ira di Dio per mano di Sesac, cominciò a frequentare il tempio forse più per timore che per vera conversione di cuore, impero che anche di poi si legge che egli fece il male e non rivolse il cuor suo a cercare il Signore. 2. Paral. 12. 14. 14,30. Fu guerra continua e Geroboam e Roboamo vissero sempre come nemici, facendo l'uno all'altro tutto il male che poteva, benché non sempre avessero eserciti la campagna. Roboamo poté dimenticarsi o disprezzare il divieto di Dio. 3. Regione 12. 24. E forse Geroboam talora lo attaccò, nel qual caso non era proibito a lui di difendersi.